attenzione 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione 10. Ciao dottore. Cos'è, non sei andato fuori? Beh, tutti qua siete. E allora, con questo brutto tempo dove va? Io saluto a tutti, siamo arrivati un quarto d'ora fa a casa, dai, nemmeno. E com'era il tempo in campagna? No, già, niente campagna, siamo andati da parenti qui a fianco, nella via a fianco, però siamo stati al chiuso, perché le opzioni in caso di bel tempo, tempo bellissimo, campagna, tempo velato in terrazza qua vicino, e invece siamo stati al chiuso perché il tempo era una cacca. Vai, Tore. Sì, quasi tutto il giorno piovendo e poi stasera si è calmata e ha cominciato a fare un po' di freschino e si sente. E la Pasqua lo avete passato? In campagna al Giarrado, da luna in su. E purtroppo il tempo è quello che è, beato chi ce l'ha la casa in campagna a starci. L'interessante è stare tutti in compagnia, come ho fatto io, sono stato in famiglia e niente. E oggi avevo gente a pranzo e ho dovuto anche cucinare. Vabbè, no, ieri cavolo proprio mi sono crepato tra mangiare meglio io. Sei gotto, no? Sei diventato una zantara. Che bello. Oi, oi, oi, oi. No, gotto proprio no. Un po' di gritto. E dopo mi sono drubito nel divano. E te io un toro freddo puro. Che bella cosa. Avanti Marco. Io praticamente alcolici non ho bevuto praticamente niente. Ieri ho bevuto un dito di mirto, uno di crema di limoncino e oggi solo un dito di crema di limoncino. Niente vino, niente di niente. Perché tanto alla fine non mi piace. Abbiamo mangiato solite menate, giochi di società, tombole e quant'altro, dai. Però meglio che stare a casa secchi e pesti. Peccato perché in campagna volevamo arrostire, mettere la griglia, invece nada, se ne parlerà alla prossima Pasqua. Vai Gianni. Sì, non c'è bisogno di aspettare la Pasqua, quando fa bel tempo andate lo stesso, dai. Io penso che tua zia sia sempre disponibile. Sì, alla fine già, hai ragione tu, è che sai, c'è mio zio che è incicciato, mamma incicciata, e l'altro parente che viene lo stesso c'ha un figlio un po' incicciato e è sempre quasi un problema trasportarli, però niente di veramente pesante, cioè fattibilissimo, dai. E va bene, e anche questa Pasqua è Pasquetta andata. Il povero Papa se n'è andato, beato lui, in paradiso, così non ha più tribolazioni, perché guarda che quella carica è una tribolazione già, non hai vita privata, tutta la vita è sacrificata per Dio e quant'altro. Vai Tore. Sì, ma non così ne è andato drumito, se ne è andato. Gli è venuto lì l'infarto. Sicuramente gli è venuto da dormito. Ma sino a ieri aveva dato la benedizione a tutti. Secondo me se lo sentiva perché è andato nella chiesa dove lui andava sempre a pregare, Santa Maria, non mi ricordo come si chiama, degli Angeli, Santa Maria degli Angeli. È voluto andare lì a pregare e poi ha salutato a tutti. Così ha fatto mio padre. Mio padre ha detto state tutti bene. E lui ha detto sì, tu stai bene, voi non ti preoccupate proprio, voi state bene. Sì, il giorno dopo è morto. Così che vuole, senza soffrire, ma lui ha sofferto un mese e mezzo. Però da voi come si è andata un po' gare dove e stamattina se n'è andato, ha dato la benedizione a tutti. che se ne è, voleva, se ne è andato. Vabbè. Non era manco tanto vecchio, Non era tanto vecchio, solo che era malato. Quando ti prendono queste cose, e devono colorare, ciò di qui non i polmoni, si riforma, si fottito. Comunque un bel traguardo, dai. Arrivarci a 88 anni. E vabbè, c'è chi arriva di più. Mio padre è arrivato a 96 anni, che era sano e come un pesce. Così ottimo, eccellente. Si è consumato proprio, lui usciva da solo, a 96 anni si prendeva strada, se ne andava già lì, era indipendente. Buonasera, buonasera. Ciao Ari. Ciao, saluto di ascoltate. Ali, abbassa quel parascotta, sta cominciando a innescare. Aspetta che devo fare adesso mi va meglio, sì. Sì, va meglio, dai. Cava, cava. E vabbè, anche lui ci ha lasciato, vabbè. Comunque è stato un bravo papa perché ha accettato i gay, ha accettato tante... ha predicato sempre pace, ha cercato di far terminare le guerre, eccetera, eccetera. Sì, infatti è così, purtroppo. Ma ne faccio un altro, a fine settimana c'è il funerale. Non capisco perché aspetta così tanto, forse è per farlo vedere alla gente. Sì, adesso lo mettono nella piazza, lo mettono. Come hanno fatto con gli altri, 2-3 giorni, e poi si finirà il funerale. Come nella piazza si faceva? Ah, lo metteranno più in dentro, lo metteranno. Si faceva paggi e basta. Lo mettono dentro il Vaticano, lì. Di solito li fanno la stanza lì nel Vaticano, però lui adesso non vuole essere seppellito al Vaticano, vuole essere seppellito a Santa Maria degli Angeli dove andava a pregare. Santa Marta ha detto che ci vuole a Santa Marta. Oh, Santa Maria degli Angeli, no, Santa Marta dove abitare adesso. Sta facendo male a lei. Ah? Sta facendo tutto a fischi. A fischi? Perché sono troppo vicino a Malacchino, ma aspetta un attimo, devo azzeccare la manopola, adesso va. Ora, così va meglio, ho passato l'audio. Un po', cosa c'è, il rauco, sì. Appena rauco, sì, sono raffreddato. Ci piglia un freddo, ieri. Ti ha agito di notare con il sedere tappato. Certo, tu ti stai con il sedere tappato, ma il resto tappato gli c'è un più. Afora. Ah già. Alice, l'amplificazione si può regolare. Ma che c'è questo? Che passa? L'amplificazione è... Adesso è troppo ripetitivo e poi dovresti abbassare un po' il mic lì. Io lo mettevo a mezzogiorno e 5 e andava bene, non lo so se quello è regolato come il mio. Prova a metterlo a mezzogiorno e 5 il mic lì a vedere se è, perché è troppo forte e ti distorce. Non è che distorce, non è pulita la radio. Perché mi avvicino dopo io il microfono, adesso sono più distante, guarda un po'. Allora, quel microfono non devi parlare di lato, non da avanti, ma di lato. Di lato, vabbè, lo devi fare di lato. Se non vuoi problema mi aspetta un attimo. Attacco il 140, faccio prima, aspetta. No, vabbè, basta regolarlo lì, lo regoli una volta e poi non lo tocchi più. E mi devo piantare, questa parecchio, capito? Aspetta che attacco il 140. Sì, non va a regolare lo regoliamo, non c'è problema. Te lo dico io come lasciarlo. Riprendi Marco. Metto il 140. Ho già la modulazione come qua, a parte che sono rauco anch'io, mezzo rauco. Sai che trucchetto ho usato? Ti spiego, qua come metti la potenza media o alta, si mangia tutta la radio, proprio se la mangia tutta, ed è l'apparato così. Allora ho messo quei 200 mW di portante muta, però in linea retto, e ottengo 9 watt, una cosa del genere. Quindi sono pilotato a 200 mW mezzo modulato, e poi linea retto mi dà 9 watt massimo in tutto. Per un lineare invece che 9 watt, riesci perfettamente, la voce bella presente, la radio, no, va bene, non c'è problema. Sono attaccato il 140. Qua ti faccio la prova pratica, guarda, così è pilotato 2 watt e mezzo e sono 50 in uscita, però guarda quanto si mangia la radio. Adesso te lo piloto a 5 e 90 watt di portante, però la radio mangiata non è del lineare ma è dell'apparato, lo notate? Ma non è più di tanto, Marco, è quasi chiara la radio. Ah, ancora è fattibile, vediamo Tore cosa ne dice. Tore, a me stai arrivando benissimo, no? Qua io ti do 9, ti do, a me mi stai arrivando 9, ah, perché con questo è un apparato di... No, ti dà più di tanto di smitter, perché ha attacchetti. No, la radio è chiara, buona, bella, buonissima proprio. Yeah. Comunque convenite che da questo passaggio, tutta manetta, a questo passaggio la modulazione è migliore, più chiara, più aperta, no? Sì, la seconda è più forte. Tanto in città siamo vicini, quindi 9 watt vanno più che bene. Va bene, vai Antonè. Sì, niente, va bene, non voglio, no? Cerchiamo di presentarlo. Aspetta, non siamo là. Metterà il watt adesso, 50. Ah, sta funzionando bene adesso, mi ha fatto bene un po' di acqua. Antone, abbassa il televisore che sento più televisore io che la voce tua. Dimmi, ma aspetta un attimo che abbassi. Ovvero Gianni, si tende a più la televisione che la voce dentro. E io, mi ricorda la persona che non c'è più adesso, che succede forse solo così. Eia, si sentiva più la televisione, il cane e la moglie che parlava. E adesso ce lo si sente più nulla, via. Ci vuole poco a silenziare tutto. Ma quando ci penso mi viene sempre il magone già. Non c'è giustizia proprio a questo mondo. Vai Tore. Purtroppo dove mandare come te ne bisogna romanzano, se te ne bisi. Se le deci appigiati in romanzano. Se no, arrivederci. Io ogni mattina ringrazio Dio che mi ha conservato anche questo giorno. Andiamo giorno per giorno, se no che hanno un po' di mandato. Perché è una fortuna essere ancora vivi. Oh già, se io dovessi crepare stanotte o domani, l'unico mio coso sarebbe di lasciare mamma sola. L'unica mia... già capito, per il resto non mi interessa altro. Vabbè, ma domani adesso cammina ancora. No, è col deambulatore però, col deambulatore. Non si è operata perché, secondo il medico anche era troppo magra, non sarebbe stato a rischio troppo e ha deciso di non farlo, mamma. Però vuol dire che non soffriva come soffro io. Cioè come soffrivo io non c'era metodo, non c'era rimedio, guarda. Dolori fortissimi di notte, ma forti però, da non poter resistere, da sederti nell'acqua, da gridare. Quindi l'ho dovuto fare per forza. Eia. No, da quel punto di vista no. Più che altro, sì, la mobilità è ridotta, molto ridotta. Dolore magari, certo, devi stare attenta come si muove, però non... No, tu eri messo più male già, tu avevi dolori forti, mi ricordo. Pensa che mamma avrebbe dovuto fare due gambe, quindi... doppio rischio, non se l'è sentita a rischiare. Va bene, Antonello, riprendi. No, cosa? No, va bene, già va bene. Roia, io lì l'unica cosa che soffro un bel coso. Mal di collo, avanti lì mi si è gonfiato, mi si è un lato e mi stava tirando, perché va male l'orecchio e il fiato perché ho preso freddo, capito? Sono uscito, prima c'era caldo, poi verso le 9:30 ho cominciato questo freddo, sono uscito a portare il cane e mi ha fregato. Mi sono fatto controllare dal medico dove sto facendo alcuni lavori, mi ha detto di prendere un antinfiammatorio e così ho fatto, è già ben passato. E tu metti una sciarpa quando scendi giù come faccio io metto una sciarpa, torno al collo e poi scendo, quando scendo la sera alle 8 io la metto sempre. Vabbè, devo farmi prima di mettermi questa cosa qua, la sciarpa, come dici tu, devo fare la che vado da via al quadrato e mi faccio la risonanza magnetica, me la pago a fanculo con quel ticket e mi faccio fare l'esame, così vedo quello che ho capito. E se no è inutile. Tutto lì. Adesso già si è sgonfiato, e stamattina sono tutto tranquillo, ma l'altro giorno, cazzo, mamma mia, la carità. Ma lo sai quanto costa fare una risonanza magnetica? Sto aspettando anche a farla, c'erano solo a Cagliari al volo, a Sassari non c'è nulla. Io dico che la fa, mi ha detto, lì al quadrato, dice paghi, sono paghi quelli convenzionati con la SL, tipo quei 100 bresere che c'è a Pratamora, c'è a Pratamora, è a Pratamora, e si può fare anche tante lutte lì, mi ha detto che i ciechi, la stessa io l'ho venduta. Deve andare a portare a Cagliari, a un certo punto dice spendi 200 euro e scendere giù e salire è la stessa cosa, però tu la fai qui, paghi e va a far cuffia, tanto io ho l'esenzione CG dottore, quindi pago di meno perché ho la 104. Comunque sempre tramite il CUP devi andare, non puoi andare direttamente così, devi chiamare il CUP ti manda. E vabbè, prima vado a mettere lì al CUP e chiedo se c'è qualcuno convenzionato e cosa del genere, mi faccio prendere l'appuntamento e poi ci vado e così mi faccio dire quanto devo pagare i ticket, non è che possa andare così. Devo pagare un ticket che me li fanno controllare, se no se te ne fuggi il cazzo, se sono fregato, mi arriva la multa a casa, capito? Io sono un mese, te lo sto dicendo, sto cercando di fare una risonanza magnetica al bacino e sono un mese che sto tentando ogni giorno, c'è solo a Roma e a Cagliari il posto. A Sassari non c'è né convenzione, se non c'è convenzione te lo devi pagare totalmente, non ti mettono il ticket, te lo devi pagare tutto. Ma diciamo la è andata lì a Trattavola, certo per essere sono convenzionati con la SL, capito? E c'è tutto lì, c'è. Avanti, tu. Sicuramente. Io avrei provato prima andare al CUP, poi vedi cosa ne esce fuori. E poi se no andi in Kiwi e te lo bagni. Dove mettete di qua? Infatti voglio fare così. Cioè, se ti piace può telefonare via Centro Benessere, c'è il numero del telefono, faccio altro che telefonare. Siccome sono convenzionati, dico quant'è che spendo per dico che ho l'intenzione di 503, eccetera, eccetera, vorrei l'appuntamento. Cosa devo fare? Se devo andare al CUP oppure se devo scendere direttamente con il foglio del medico di base, capito? Medico di base devi parlare prima, vedi cosa ti dice. E c'è già il foglio del medico di base, l'ha già fatto, capito, per risonanza magnetica. Tutto lì. Quindi, adesso vediamo un po'. Questa settimana provo a... cioè, domani o dopo domani provo a telefonare, a vedere cosa mi dicono giù, o so passare da Origo, se senti qualcosa, se è convenzionato con la SL, gli chiedo a vedere cosa devo fare, qualcosa mi diranno, se mi dicono porta 100 euro, 120 euro, quelli che sono, gli dirò, almeno mi faccio risonanza magnetica, voglio sapere qual è il problema, cioè, perché mi si ruffa il collo da una parte oppure dall'altra, capito? Per essere magari che è roba di circolazione del sangue, cosa ne so io? Anzi Marco. Guarda, io temo che in futuro si arriverà tipo al sistema americano, perché con l'Italia la sanità, poi con queste, hai visto, adesso hanno preventivato di spendere non so quanti miliardi di euro per riarmarsi, questi l'Europa vuole la guerra a tutti i costi. Per carità, vabbè, vai già. Perché se no devi pagare totalmente la visita, completamente, non ce n'è di esenzione, non applicano l'esenzione se non te lo dà il CUP. A meno che siano dottori tipo, cosa ti posso dire, quello che fa il cardiologo che c'è via Diaz, quello ti dice guarda, se puoi chiamare tu e poi vediamo se c'è posto, te lo diamo direttamente, però te lo dicono loro, e diversamente no. Break. Ehi a capo, buonasera a tutti, buonasera. Sono a casa io. Buonasera. Non si è uscito. Come sente? Ora, ora. Adesso sì. Prima si è andato e sparito, piano piano. Ho detto, sono a casa che è saltata la serata. Ma stasera è Massi Gazzè. Ah, Gazzè sta suonando. Noi invece ci hanno fatto saltare la serata. La mamma Valghiero con questa tenda con i Bertas hanno detto blocca tutto, non si fa serata. Perché? È brutto tempo. Ma perché è morto il Papa. Quindi è lutto e cosa? Ma ho capito. Ma marci da testa, no? Per alzare il gioco, boh, il comune di Buciudorra invece non è a fottiglia nulla. Io non so manco che musica faccia questo rete, boh. Non me lo ricordo a tu. Come no? Se qualche brano se è, te lo mando. Che cazzo mi fa? Più o meno accennami, che cazzo mi fa? Cosa ti posso accennare? Aspetta. Io il nome me lo ricordo, ma non mi ricordo di aver fatto canzoni sue. È un grandissimo artista. Buonasera Pomponio. Io ci avanti un precipito. Sì. Niente serata. Però via. Io che ci aspettava stamattina che moriva quello, siete in mezzo. Io ero in giro, ma invece stamattina. Guarda che tempo ne fa. Aspetta. Se fosse qui dipendere. Con la bassa voce ma... Sì, sì, Anto, la conosco, sì, sì. Ho capito. Hai capito. Ma niente di che, però, no? Oh, è un grande artista, Gava, gava. E se stanotte magari ci passo. ci andiamo a vedere. Stavo già cominciando a suonare, perché lo fanno preso, non lo so. Ah, lo fanno presto il concerto. Questo cavolo di pubblicità di merda. Sì, anche ho capito adesso che sì. Non ce l'avevo presente. Voi volete aver conosciuto tutti? Sì, vabbè, tu sei un professionista, che sei sempre in mezzo alla musica. Cappa, è più forte di me. Quando vi ranno il DNA non vengo da rifarlo. A chi lo dice altro? Io sono sempre cantante. Vabbè, riprendi io, Marco. Anto, si è parlato, tu non stai uscendo, a tratti, a momenti non stai uscendo. Radio. Anto, non è più radio. Radio. Copiato? Io sono stato io un attimo da Simula, dimmi, a me puoi chiamare. No, allora è a cosa? Antonio, per intanto non esci il radio. Avanti, Tore, avanti, riprendi tu che... Antonio sta guardando la radio, che cosa c'ha? Sicuramente il microfono, Antonio, c'ha male il microfono, c'ha male il microfono, Antonio. La musica vi dice tutto, c'è te che andiamo per... Oioioi, andiamo. Peggio uno e male l'altro. Certo, Gianni, peggio uno e male l'altro. Acciappemmo. Andiamo bene, andiamo. Marco, tu sì che sei bello limpido a recuare, avanti. Anzi, ti dirò già, questo mic non è performante, il mic originale dell'LMS200, sarà che è vecchio, non è performante quanto quello del 3009. Anche quel DMC507, quello comprato a parte, è già migliore. Potrebbe essere la membrana, oppure il magari l'apparato in semi che non pompa forte. D'altronde questo è tipo multimodemi, non hanno mai avuto una modulazione forte con i watt normali, cioè con i 4-5 watt, non hanno modulazioni forti. 3009 secondo me è un gradino superiore, perché glielo puoi aumentare notevolmente. K. Ah tu, K. C'era un 3009 che stavano vendendo, nuovissimo, però il microfono dice me lo tengo io, cosa vuol dire? 120 euro. Diciamo che il microfono io originale ce l'ho, è nuovo, ma non so se qui va bene, stavo per prenderlo. Ma quale 3009? Le ultime versioni, quelle della che vendeva la Proxel? Nuovissimo, non lo so, ha detto è nuovissimo. Ce l'ho pochi giorni, poi sono passato a CRT eccetera, non so bene, sì, ma se lo vedi con microfono e tutto, non è che lo dai senza microfono che ti piace, boh. Vabbè, io ce l'ho il microfono al 3009 perché io ne avevo uno di scorta e quindi me lo ritrovo a casa, è nuovo, mai usato. Beh, se è nuovissimo in teoria dovrebbe darlo con tutto, staffa, pomelli, microfono, cavo di alimentazione, sempre originale, possibilmente anche la scatola. Sono rodali, ecco cos'è, non te lo prende nessuno così, eh? Ma non perderci a vendillo. Allora, di solito lo vedo a 150, lui sta vedendo a 120, perché non dà senza microfono. Io il microfono ce l'ho, se fossi sicuro che funziona bene l'avrei preso. Ho già, ho dottore. 4. Oh, dottore, Gianni, sapete che vendevano, c'erano certe che vendevano le scatole originali del 3009, solo la scatola, 30, 40, 50 euro su eBay, e c'è chi le comprava? Magari io chi dice rovinato, che cosa, se è nuova, se la comprano, capito? Se sono collezionisti che sono dice fissati. Ah Gianni, quello coso, quello mattone dritto, fa fate vedere che fa. Me l'aveva chiesta Luca del Monte, me l'aveva chiesta la scatola al 3009, io non capivo perché, poi ho capito perché, perché a mercato la puoi dare, la puoi vendere. Io, no, dei baracchini ho tutto, tutto, dalla rondellina del portamicrofono, tutto, scontrini, tutto alla mano, manuali istruzioni, garanzia timbrata, tutto quanto. Tutto quello che do io è tracciabile, non è furato, ecco. E anche io, perché ne ho sempre comprati nuovi, da apparati, perlomeno, tranne questi grandi, questi base, però gli altri che compravo, tipo il Magnum, il 3009, tutti quelli di Inter, che li ho comprati tutti nuovi. Adesso già per dire, io avevo venduto le, come si chiama, lì, FM 548 SX, anche quello dato con tutto, nonostante tanti anni, tutto, pomelli, staffa, mic originale, cavo alimentazione originale, forse anche la scatola avevo dato. E quello che ho dato a Pomponio era l'FM 500S, anche quello completo, mic, staffa, pomelli e cavo di alimentazione. Io però li avevo ampliati i canali all'FM 500S, con una cazzata, c'avevo una scuola automatica all'interno che bloccava i canali, tu forzavi, prendevi nella manopola dei canali, mettevi uno straccio con la pizza, forzavi oltre il 34 e ti dava i canali, gli altri canali. Lì c'era una modifica simile, non proprio tutti quei canali, però era simile. Insomma, comunque la roba quando si vende, cioè tu vedi una marea di baracchini su eBay, cavo non originale, quindi magari aperto, saldato dentro, tutta la razionatura, staffa, il logo, pomelli, il logo, mic alle volte non è originale, perché se uno se lo vuole mettere in macchina, cosa fa? Deve andare da Bricco e deve trovare quelle cose forate. È una rottura di scatole, dai, originale. Invece se tu c'è tutto originale lo puoi vendere anche a un prezzo maggiore. Vai, Tore. Sì, infatti, è così. Cioè, l'attacco del microfono com'è? A 4. Di che cosa? Dell'FM500S? Allora, come qua? Sono ritornato, mi sentite? Ehi, Aldo, un attimino. Cosa stavi dicendo quello dell'FM500S? Sono 3009 500S. Sì, Tore, 4 poli. Allora vedaggio io un microfono originale International. Ce l'ho originale. Ma non è International, c'è scritto mio padre, è vero Marco? C'è scritto 3009. Io gli avevo cambiato l'impugnatura, gli avevo cambiato perché me ne era caduto per terra e era impaccato. Allora gliel'ho cambiato, gli ho messo quello International. Però tutto il resto è originale. Ah, ho capito. E così ho fatto io nel microfono che ho nel Magnum. C'ha la scatola del Magnum, però l'interno gliel'ho fatto io, cazzo è potente, è vero forte. Fammelo vedere come di coso, che lo sta vendendo. Che cosa? Il 3009. Il 3009 lo stanno vendendo su internet, non è che lo stanno vendendo. Io l'ho visto su internet, adesso non mi ricordo se su Subito che l'ho visto, forse su Facebook, ma su Facebook che lo trovi, se c'è ancora. Oh Gianni. Ehi. Allora, il 3009 ultime versioni, quello omologato, aveva il microfono marcato Star, ed è quello che è più stretto in basso e più largo in alto come microfono, e il PTT lo premi in alto, capito? Il PTT lo premi in alto anziché a metà. Bene, si sente l'FMT400S, Intec. È quello che c'ho io, Marco, quello che c'ho io. Avanti a tu. Questo è l'FMT400S dell'Intec. Sì, si sente bene, ma gliel'ha fatta la modifica? No, è originale questo. Però è una fesseria modificata. Sì, già l'ha già messo, non ti preoccupare. Oh, sono arrivato! Aspetta che mi sta chiamando mio figlio. Ciao, sono Vanove, mi si può modificare già. C'è cosa nel libretto, se lo voglio modificare. E cosa li puoi fare? Un ponte c'è, che devi fare? Devi fare un ponticello di filo, è una modifica che ti viene più potente. Ho capito, la potenza di un watt è praticamente modifica. Da 4 va a finire a 10 watt e va più forte pure. Allora il Galaxy arriva sino a 15 watt, puoi farlo uscire anche con 15 watt, ma io l'ho lasciato a 9 watt perché così non sforza molto, capito, i finali, se no magari se lo metti a 15 ti brucia il binario. Anche questo è così, se lo modifichi e accorgio scaldano troppo i finali. E infatti quello lasciarlo, io sto parlando di canali, quello che c'ha tu è una fessia, qui c'ha 34 canali, lo puoi fare a 40 canali, tu praticamente forzi la ghiera dei canali, metti uno straccio con la pizza, forzi, si spacca un'aletta che blocca all'interno e c'è tutti i canali. Sì, quello sul coso, sull'ente che ho io, 34 canali, quello lì ha sballato, facendo si è sballato il coso dei canali e se ne andare in canale a conto Giulio. A me non mi si è sballato nulla, a me me l'ha spiegato l'autista che veniva da noi a portarci l'acqua, quello che veniva la Siricqua. Praticamente mi ha spiegato come fare, aspetta, se vuoi te lo faccio io, non lo faccio io, mi ha spiegato come fare, ho detto guarda io ne ho aumentati i canali, non te ne dà tutti i 40, va a salti, capito? E va a salti va, ma è meglio lasciarlo come gira. Perché poi questa letta rimane all'interno, si può bloccare, puro. Ma a me non mi è mai successo, a me mi è sempre andato bene. C'è quell'altro 34 che c'ho io, te la giocata una parte che si sono ballando, sei ballato tutto rugoso, sei ballato. E magari quello che si poteva fare la modifica, tu l'hai forzato e l'hai rotto, però questo qua nell'Intec FM503 sono sicuro. E vabbè, se la giocata una parte, tanto abbiamo tutta la mondezza, abbigliava. Dovevi girare lo squarcio ma fa così. Ah, ma qui giù anda benissimo. Le tocca appena lo squarcio ed è pulito. Vabbè. E io adesso mi sono occupi in madre, non mi sono occupi con parenti. Anch'io mi sono fermato, solo che volevo mettermi un 120 canali e togliermene questo da mezzo alle scatole. Compratelo, vai su internet e lo guardi. Ce ne sono in vendita, io a buio. Se no, se la abbigliava di Dubai. Avete parlato in due. Ma adesso l'accordo. Ho detto, no, anche l'altra tre settimane fa c'era l'LMS 200, lo stavamo vedendo 150 euro. E che avevo speso, se no l'avrei preso. Col mese avevo speso della macchina, quindi l'ho fatto tagliato. Avanti a tu. Ciao Luca. Andiamo bene, andiamo. Questa voce da Gozio che fa, eh? La intendi già? La voce faccio da Cogio. Ciao Luca, chiatta, tu ci chiedi una puti più di me. Andiamo bene. Sì, no, io ho trovato, stasera ho trovato. Ma c'è da coso, che cosa? Uno di quelli a me. No, lei, guarda, c'è la voce da chi? Non lo dire. Aia, che gamba. Ma se te ne scenda già. Sì, vabbè. Adesso è moda, Luttato, non c'è problema. Ciao Luca. Ah? Luca, ti ricordi a quanto vendevano le scatole dei 3009 su eBay, più o meno? Sì, sì, io ce l'ho. Ehi, ma ti ricordi a quanto le vendevano, più o meno? A quanto le vendevano? No, forse 30. Io ho visto anche qualcosa in più. Ma non ricordo, forse una trentina, 30-40 euro. Io ce l'ho, l'ha dato un amico a vendere una radio e mi sono preso la scatola però. Che l'ho data io, cuocomane. Ah, adesso tu c'hai, ce l'hai ancora il 3009, quello che è stato in copertino. C'ho tutto già, c'ho tutto, certo, c'ho il copertino vecchio. Quando avevo acquistato ho messo i tuoi, quelli nuovi, la mascherina, qualche pomello, c'è tutto. Sì, sì. Hai fatto io. No, pensavo che te l'avessi venduto. No. 2009, oh. No, non lo vendo. È un bel apparecchio, 2009 esce bene in radio. E si sente bene soprattutto. No, non lo vendo già, perlomeno adesso no. Poi un domani che lo dovessi vendere con la scatola, non lo venderò meno di 150 euro. E come l'ho venduto io? Ma me ne sono convinto che non l'ho venduto. Già, purtroppo. E mangiano beccola. A me mi piace, sai qua che mi piace, la Fayette e l'MS 200. Mi darà un po' da lavorare perché di fare i copertini, ma se lo trovo che funziona bene me lo prendo. Quanto mi dai? Non è completo quello. Ma tanto in macchina tu usi l'altro. Lo so. Ma è senza staffa, a me piace con la staffa. Quanto vuoi, dai, io dimmelo. Oh, vabbè, io l'ho buttata così per vedere se Pomponi interveniva, adesso questo è un regalo che mi ha fatto, lo tengo. E poi a me piaceva lo stesso questo apparato, poi già non è niente di che, ha molti limiti se vogliamo, non ha i canali alfa, sui canali normali, sui 40 normali non ha i canali alfa, non ha neanche mezzi canali, perché anche se metti il tune, clarifier, quello che è, ci avrai un kilohertz più o meno di escursione da una parte all'altra, non c'ha nemmeno mezzi canali, capito? Ma c'ha i canali continui, però quello che mi piace è quello che arriva sino a 100, cazzo, in continuazione. Roba seria, No, già 50 per banda, bianco per me. Gamba, eccomi qua. Bene, mi sentite con l'Intec FM 500S, è questo. Ciao Antonio, ciao Marco, ciao Alessio e ciao a quelli con le orecchie grandi. Ci risentiamo alle prossime. Ciao Tore, ci sentiamo, stavi bene. Ciao, ci sentiamo tu. Buona serata. E fra poco vado via anche che devo portare giù il cane. Marco, io mi ricordo che il mio proseguiva, faceva 50, 51, 52, 53, fino a arrivare a 100. Piace, va anche quello di Marco. Segna così, segna. Poi c'è i quattro lette famosi. Cava. L'unica cosa anche più bella di una qua, il terminello che ce l'ho qua, con il GB4 tuoi. Cosa? Adesso il 2009 ce l'ho ancora io, con le doge BP 4 toni. KK. Eia, mi sentite? Microfono originale, Intec, 500S. E adesso finalmente ti sentiamo bene. Ti sentiamo. Io me ne sto andando, vai, vi saluto. Vi vogliamo buona continuazione, grazie per il QSU e ci sentiamo alle prossime, dai, che devo scendere giù e il cane ci sta lamentando. Ci sentiamo, ciao ragazzi, statemi bene. Ciao, ciao già. Ciao Gianni, ci sentiamo, con quelli tipo tutto. Avanti, Antonio. Ehi, cappa. Luca, mi senti? Bene, mi senti Antonio, questo qua è l'FM500S. Già, ti sento bene a Puglia, ci mancherebbe. Comunque lo puoi aumentare di LC, lui. Non è che ci voglia due, questo granché a farglielo. Il clima è agganciato al trasformatore, quello grande. Non come aprire l'apparecchio, lo trovi subito, lo trovi. E aumenta l'avario, una volta gli aumenti le LC, tuba che vuole come un treno. Già lo so già, ma mi sembra che spinge abbastanza, no? Hola, hola, è buono. E ci cavano a togliere i mattoncini dal forno, se no mi ci bruciano.